Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Dieci minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Commenteremo il DL Ristori bis, anche perché si sono aggiunte delle categorie a quelle che già erano previste nel DL Ristori, quello che vale per le zone gialle, per intenderci, per farsi capire, e che ha rimborsi che vanno dal 100% al 150%, quindi da una volta e mezzo a due volte fino a quattro volte i rimborsi ottenuti con ad aprile sulla mancanza di utili di fatturato, deve essere superiore al 33%, e con diverse entità, secondo che tu fatturassi da 400, fino a 400.000 euro l'anno, fino a 1 milione, fino a 5 milioni, è scomparso però la soglia dei 5 milioni. E quindi ci sono da un lato nuove categorie che entrano, anche per farmi capire, nelle zone gialle, e sono 73 codici Ateco nuovi. Si va dalle scuole di danza, ai musei, negozi, bomboniere, produttori di fuochi d'artificio, gli zoo, le guide alpine, che si aggiungono, sono una ventina in questo senso, le voci, appunto autobus turistici, forse l'ho già detto, comunque, che si aggiungono a quelle già individuate con il primo DL Ristori. Poi, per chi è in zona rossa, tutti i soggetti in zona rossa vanno direttamente al 200%. Faccio un esempio: i bar e i ristoranti nella prima versione, nelle zone gialle, sono al 150%, anche gli alberghi, poi gelaterie, pasticcerie, erano al 150%. Se sei in zona rossa vai subito al 200%, perché si ritiene che tu abbia un danno più alto, visto che sostanzialmente puoi essere aperto solo per l'asporto e il delivery, non per il consumo, come invece avviene nelle zone gialle fino alle 18. E quindi, però, oltre al raddoppio si è unito anche un nuovo codice, o meglio altre 57 categorie che includono tutte le tipologie di merci vendute nei negozi che invece nelle zone rosse dovranno abbassare le serrande. Quindi vestiti, mobili, mercerie, le armi, i sex shop, anche gli ambulanti, le agenzie matrimoniali, l'estetista, e poi una terza tipologia che scatterà nel 2021, che riguarderà le attività dei centri commerciali di produzione industriale del comparto alimentare e bevande. Lì andrà, potranno avere un 30% che andrà calcolato sulla base di quanto ricevuto con il Ristori 1. Comunque, il titolo è che da un lato ci sono nuovi ingressi nei ristori per tutti, quindi anche per le zone gialle, dall'altro il nuovo fondo che vale 2 miliardi e 400 milioni, se ben ricordo il nuovo meccanismo, 2 miliardi e 800 milioni, che vanno a sommarsi ai 2 miliardi e 400 milioni che già valeva il primo DL Ristori, dicevo, il nuovo DL Ristori include da un lato categorie nelle zone gialle, dall'altro invece ma aumenta il ristoro per chi è in zona rossa e introduce altre categorie in zona rossa. E sembra un po' complicato, ma il motivo è molto semplice. Da un lato c'erano alcune categorie che si erano lamentate e avevano protestato perché esclusa il primo DL Ristori, quando tutta l'Italia era in zona gialla, per farci capire. Quindi fino alle 18, bar e ristoranti, i negozi aperti per le altre tipologie. E quelle sono state inserite. Poi c'è da tener conto del fatto che nelle zone rosse bar, ristoranti sono chiusi, tranne che per asporto, ma sono chiusi anche tantissime altre tipologie di esercizi, quelle che citavo, abbigliamento, estetica e quant'altro, e vanno messe dentro le categorie, e tra l'altro riceveranno anche il 200%, cioè due volte quanto ricevuto ad aprile. Di questo parleremo nella seconda ora del programma. In apertura invece due notizie su tutte. Una riguarda le elezioni americane, per capire che vantaggio non tanto solo sulle nostre aziende nei rapporti con gli Stati Uniti, ma insomma che cosa potrebbe cambiare dal punto di vista economico con la vittoria di di Biden, se vi dovesse essere un allentamento nella posizione con la Cina e quindi un risultato sul commercio mondiale, personalmente io ritengo che una delle poche cose buone fatte da Trump sia stato proprio porre sotto i riflettori l'atteggiamento cinese, e non ho dubbi su questo. Però anche a noi interessa molto i rapporti con l'Europa, perché sappiamo che i dazi erano stati minacciati, poi messi in un caso, adesso ne parlerò, ma c'erano tensioni molto forti sul commercio anche con l'Europa. Dall'altro però commenteremo quello che sta capitando sulle borse. Perché lo dico? Perché è chiaro che l'annuncio della Pfizer ha entusiasmato, di cui vi hanno parlato i nostri GR24 ampiamente, ha messo le ali, ed è il caso di dirlo oggi, a tutti i mercati azionari. La Pfizer cosa ha detto? Ha detto che, lo ha comunicato il presidente Albert Bourla da Parigi, un vaccino anti-Covid sviluppato congiuntamente dalla Pfizer e BioNTech è risultato efficace nel prevenire il 90% delle infezioni, anche durante la fase 3 della sperimentazione che è ancora in corso. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito incoraggianti le notizie che arrivano dalla Pfizer. La von der Leyen, e quindi la Presidente della Commissione Europea, ha detto la Commissione presto firmerà un contratto con Pfizer e BioNTech per avere fino a 300 milioni di dosi. E pochi istanti fa sia Pfizer che BioNTech hanno fatto sapere di prevedere di poter fornire 50 milioni di dosi di vaccino nel mondo per quest'anno e 1.300 milioni nel 2021. Questo ha messo, ripeto, le ali alle borse, nel senso che tutte le aperture sono state fortissime. Non ha fatto eccezione Wall Street, dove l'apertura è stata del 5,64% come primo dato in apertura. Adesso Milano sta guadagnando il 5,20% ed è tornata sopra i 20.000 punti, 20.600 punti. Parigi guadagna il 7,35%, Francoforte guadagna il 5%, Dow Jones ha un po' ritracciato, ma comunque sempre più 3,90%, Londra più 5%. Certo che qualcuno fa notare che la risposta di Wall Street è anche dovuta al fatto che sembri, non tanto dal punto di vista di Trump, ma dal punto di vista delle elezioni, sia avuto un presidente certo, però questo non giustificherebbe rialzi così forti a Parigi, a Francoforte e a Milano. Il vero motivo è la scommessa che i mercati fanno su un vaccino in arrivo, e qui la domanda che ci porremo è una scommessa speculativa? Sappiamo che i mercati amano anche prendere rischi e speculazioni, oppure è il primo segnale, perché c'è, diciamo, le borse possono essere, i mercati possono essere puramente speculativi, si dice in inglese buy on rumors and sell on news, compra sulle voci e vendi sulle notizie, oppure possono essere anticipatori, cosa che a mio avviso è anche un po' più sana e virtuosa, cioè possono posizionarsi laddove immaginano andrà l'economia reale, andrà poi l'economia, perché il tempo è tutto per i mercati. Lo dico perché questa non è una domanda da poco, perché tu puoi immaginare o che ci sia qualcuno che sta comprando a man bassa per poi fare profitti nell'arco di pochi giorni o poche sedute, oppure che invece ci sia un ragionamento che come arriveranno i vaccini, come più si avrà certezza di un arrivo dei vaccini, l'economia ripartirà, e in parte lo abbiamo visto nel terzo trimestre. Ricordate il dato sul PIL italiano più 16%, ma non solo, c'era quello francese, quello spagnolo, quello tedesco, cioè che il rimbalzo sarà molto forte, anche perché, questa è la mia opinione personale, essendo questa una crisi non per motivi economico o finanziari, non come la crisi del 2008-2009, non come quella del 29, il motore dell'economia e della finanza non era ingrippato, non era in panne, e quindi una volta arrivato il vaccino l'economia potrebbe ripartire come prima, anzi recuperando buona parte di quanto perso. L'incremento dei titoli oggi è oggettivamente impressionante. Pirelli guadagna il 13,60%, Biper Banca il 12,70%, Unicredit il 12,50%, Leonardo l'11,90%, Eni l'11,70%. C'è anche un balzo oggi del petrolio, più 9,4% ai massimi da gennaio, anche qui sempre sui le notizie di progressi sul vaccino anti-Covid, dicevo Eni più 11,60%, Saipem più 11%, Intesa più 9,40%, Tenaris più 9%, Era più 7,60%, Mediobanca più 7,20%, Atlantia più 6,70% come Telecom, Banco BPM più 6,5% come A2A, il 6,40 lo guadagna Unipol, il 6,20 mi fermo con chi guadagna più del 5, il 6,20 lo guadagna Generali, Prismian più 6, come Fiat Chrysler, Exor più 5,80, Mediolanum più 5,60, Azimut pure, il 5,30 lo guadagna Moncler. Di negativo, però poi ne parleremo, ci sono alcuni titoli invece. Fineco Bank perde il 3%, Amplifon meno 3,40% e Inuit perde il 4%. Diasorin è crollata in questo momento, il 16% di calo, però qui c'è un motivo, aveva guadagnato molto per i test. È chiaro che il ragionamento, sempre posizionandosi sul medio lungo termine, che fa il mercato, è se arriverà il vaccino i test saranno meno importanti, meno risolutivi. Questa è una valutazione, non è che sia il mio pensiero, ovviamente. Fineco diffusi i conti e cede sulla base dei conti, e ancora Amplifon appunto meno 3,38%. Di questo parleremo appunto sia dell'effetto delle elezioni di Biden nel rapporto economico con l'Europa in primis, che del movimento di borsa, oltre che del ristori bis. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e la diretta su Facebook. Dunque, di notizie di carattere internazionale non c'è moltissimo, oltre a quanto ricordavo sui mercati, all'aumento del prezzo del petrolio e appunto l'annuncio della Pfizer, se non, visto che ne parleremo fra poco. Allora, voi ricorderete, immagino, che dopo l'Organizzazione Mondiale del Commercio è intervenuta per dirimere una doppia accusa. Una era da parte della Boeing contro Airbus, che diceva che Airbus era stata aiutata, aveva ricevuto aiuti di Stato da Francia e Germania in primis, e ha dato ragione alla Boeing e quindi ha permesso agli Stati Uniti di imporre 4 miliardi di dazi ai prodotti europei, che non sono necessariamente prodotti aerospaziali. Ne abbiamo spiegato molte volte come funzionano questi meccanismi. Si dice perché magari gli Stati Uniti non importano così tanti prodotti aerospaziali dall'Europa, e quindi ti danno la possibilità di mettere dazi anche su generi e su prodotti di paesi che non c'entrano con il mondo Airbus. Allo stesso modo però la WTO, l'Organizzazione Mondiale per il Commercio, la settimana scorsa ha dato ragione a Airbus su una causa analoga, cioè diceva che la Boeing era stata aiutata dal governo americano, e anche qui ha detto che l'Unione Europea può mettere 4 miliardi di dazi sui prodotti americani. Oggi il commissario europeo Dombrovskis ha detto: da domani inizieremo a mettere dazi ai prodotti americani. Ora è chiaro che Dombrovskis ha detto: noi non vogliamo un'escalation, però stiamo seguendo lo stesso approccio degli Stati Uniti. E allora è ovvio a tutti che la soluzione migliore sarebbe annullare le due cose: annullano gli Stati Uniti i dazi verso i prodotti europei, noi annulliamo verso i prodotti americani. Per cui, insomma, anche perché l'ammontare è equivalente, i danni no, perché entrano categorie anche di carattere alimentare, per esempio, e paesi che non hanno avuto un ruolo in questa vicenda, per cui la somma complessiva è uguale, ma non i danni sui singoli settori. Questa euforia mi spaventa, dico, guardi, mi scrive un ascoltatore, sì, attenzione, è un'euforia di borsa, infatti la domanda è un pretesto per andare a comprare e speculare, che non c'è niente di male, nel senso che i mercati sono anche questi, i mercati finanziari, oppure c'è un vero ragionamento che avrebbe invece una sua importanza proprio per capire come gli operatori di borsa si attendono sarà l'economia una volta trovato il vaccino, cioè se sarà un'economia che riparte lentamente o riparte con un effetto diciamo da elastico, come si chiama, o da molla, come si chiama in gergo, quindi con un balzo molto forte. Comunque oggi il tasso di BTP, veniamo all'Italia, a 10 anni è sceso sotto lo 0,62%, è minimo storico. Gli acquisti sul BTP Futura, che è in corso di collocamento da parte del Tesoro, hanno raggiunto i 2 miliardi di euro. Ricordo che ha una scadenza di 8 anni e offre rendimenti cedolari minimi crescenti, cioè offre lo 0,35% lordo i primi 3 anni, lo 0,6% i secondi 3 anni e l'1% negli ultimi 2 anni. Poi però c'è un premio fedeltà, perché chi lo porta a scadenza avrà un rendimento tra l'1% e il 3% a seconda dell'andamento del PIL italiano. Ricordo che il precedente collocamento del BTP Futura aveva raccolto 6 miliardi, di cui 2 miliardi e 300 milioni solo nella prima giornata. Ancora la Banca d'Italia oggi ricorda o segnala che le imprese italiane hanno decisamente ridimensionato gli investimenti nell'anno in corso rispetto ai piani formulati nel 2019 o a fine del 2019 a causa dell'incertezza sull'evoluzione delle prospettive economiche. Interessante quanto emerso oggi in un convegno organizzato dalla rappresentanza italiana della Commissione Europea, in Italia della Commissione Europea, a cui ha partecipato anche il commissario europeo agli affari economico monetari Paolo Gentiloni. Il convegno era sul fondo SURE, quello per cui l'Italia otterrà alla fine 17 miliardi, ed è quello, una delle quattro gambe del piano europeo, quello che serve per le politiche del lavoro, cioè sostanzialmente noi possiamo utilizzare per la cassa integrazione, non solo. Ha ricordato anche il vice ministro dell'economia Misiani che senza i soldi, gli ammortizzatori sociali sostenuti dai prestiti europei, in Europa avrebbero perso il posto di lavoro poco meno del 10% dei lavoratori e in Italia 2 milioni di persone. Sentiamo Gentiloni su questo. Sure, e in generale le politiche di sostegno, principalmente adottate a livello nazionale. Questi schemi nazionali hanno avuto un ruolo importantissimo nel corso degli scorsi mesi, quasi il 10% a livello medio di tutti i paesi europei di lavoratori coperti da questo genere di schemi, hanno certamente attenuato l'impatto, ma cerchiamo di non illuderci sul fatto che l'attenuazione di questo impatto possa eliminare l'impatto sociale sull'occupazione che una crisi di questa profondità avrà. Mascherano una realtà che già oggi e ancor di più nei prossimi mesi è una realtà molto molto difficile. E poi dicevo dell'intervento del vice ministro dell'economia Antonio Misiani, che ha detto è possibile una nuova tranche del fondo SURE, un SURE 2, però bisogna esaurire prima le risorse già destinate, restano da allocare per quello che riguarda l'Italia 10 miliardi di euro. L'impatto dell'emergenza sanitaria sul mondo del lavoro e sul mercato del lavoro. Il reale impatto occupazionale non è rappresentato dall'andamento del tasso di occupazione. L'indicatore più realistico è l'andamento delle ore lavorate. È in drastica riduzione. Noi stimiamo nella nota di aggiornamento che nel 2020 si riduca complessivamente del 9,5%. Quasi 2 milioni di posti di lavoro che sarebbero andati persi se noi non avessimo fatto la scelta sin dall'inizio di garantire strumenti ammortizzatori sociali, strumenti di integrazione salariale alla generalità dei lavoratori dipendenti del nostro paese, anche la scelta di sostenere il mondo del lavoro autonomo e professionale. Con gli ultimi provvedimenti di questi giorni abbiamo rifinanziato la cassa integrazione, lo faremo anche con la legge di bilancio per il 2021 che arriverà in Parlamento in questi giorni. Dunque, qualcuno mi sta scrivendo, guardi che forse è in atto sui mercati una rotazione, cioè si passa dai tecnologici alla cosiddetta old economy, come si chiamava una volta l'economia più tradizionale, perché si scommette un rimbalzo anche dei settori industriali più classici e dovrebbero dimostrarlo appunto i titoli che stanno salendo al di là di quelli che operano nel settore petrolifero. Sì, adesso un po' di prudenza la userei anch'io. Certo che mi fa piacere e sono contento che la Pfizer annunci che la fase 3 sta andando bene e molto di più che se non avesse annunciato che la fase 3 stava andando male, ma qui siamo a catalano, non è che è una grande analisi. Andiamo avanti invece su quello che sta capitando nel paese, perché c'entra con l'economia, perché qui in ballo, ma non voglio anticipare la classifica del venerdì, ci sono i soldi non spesi, soldi non spesi anche dalle regioni. La regione Calabria è un caso su tutti, 700 milioni, dunque aveva ricevuto 65 milioni di euro per portare i posti di terapia intensiva a 280 posti letto in vista dell'autunno. È riuscita a aumentare praticamente di solo 40 posti letto, per un totale di 161, ampiamente sotto la soglia di 0,14 che raggiungono solo alcune regioni. La Calabria è a meno della metà, 0,7. Poi qualcuno mi chiede perché hanno chiuso la Calabria. Io non so se... Chiediamoci perché non hanno chiuso la Campania. Questo sì. A questo proposito faccio notare, e l'Ordine dei Medici continua a chiedere la chiusura del, quindi il lockdown in tutto il paese, e il presidente Filippo Anelli ha detto: con la media attuale in un mese arriveremo a una situazione drammatica di 10.000 decessi, il sistema sanitario nazionale non terrà. Sentiamolo oggi ospite di Alessio Maurizi, Effetto Giorno. Le misure del governo tendono a tenere insieme da una parte le esigenze economiche, che sono importanti perché i sacrifici chiesti agli italiani sono talvolta anche drammatici, no? Per le conseguenze che possono determinare, dall'altro gli effetti sulla salute. La nostra preoccupazione nasce dal fatto che se questo trend non venisse in qualche maniera ridotto, o non, come dire, se i messaggi dati dal governo non fossero ben recepiti dai cittadini, lo sviluppo di quei dati che hanno caratterizzato l'ultima settimana, se li proiettassimo per i prossimi 30 giorni, ci darebbero naturalmente quelle dimensioni di cui stiamo parlando. Forse è più efficace il lockdown, e sarebbe anche meglio, perché è, come dire, un mese di difficoltà per tutti, però come è stato nella prima fase, dopo un mese abbiamo scollinato il picco dell'epidemia, e quindi siamo poi andati con una curva che si andava man mano riducendo. Questo ci aiuterebbe molto. Allora, dopo il meteo citeremo anche la Calabria, perché qui c'è un problema di soldi, al di là di, insomma, dei soldi che non ha speso per il Covid. Il ministro Speranza ha fatto notare che in questi anni in Calabria si sono accumulati 700 milioni di euro non spesi per incapacità, o non spesi perché magari non riuscivano a essere spesi in maniera corrotta, aggiungo io, perché sappiamo che dietro la sanità si nasconde anche l'andrangheta, si nasconde anche la criminalità organizzata, attenzione, facciamo sempre le mezze vergini, demi-vierge. Invece leggo, solo per far capire ad alcuni ascoltatori che mi dicono: ma lei non deve rispondere, il tenore dei messaggi di alcuni ascoltatori, pur di negare che il Covid sia un'emergenza sanitaria, non sanno più cosa inventarsi, perché te non li avevo mica tutti io, perché sarebbe molto più facile, invece che scrivere e perdere tempo, accogliere l'invito del primario di Rivoli, se non ricordo male, che ha detto: venite, organizzo un tour Covid con me, vi porto nei reparti, parlare con qualcuno che lavora in ospedale, guardare qua. No, invece è molto meglio continuare a immaginare che la terra sia piatta senza andare alle colonne d'Ercole o allo studio di Gibilterra, o immaginare che il sole ruota attorno alla terra senza mettersi a guardare con un cannocchiale. È molto più comodo da casa farsi questi deliri onanistici totali. Allora, mi scrive l'ascoltatore, solita domanda: tra giugno e settembre non vi era nessun obbligo di mascherina? Questo lo sostiene lei. E di distanziamento sociale? Anche questo lo sostiene lei. Tra giugno e settembre erano in vigore, se andavi in un bar, poi che venisse fatto meno è un altro discorso. Comunque, con temperature molto simili a quelle attuali. Ma dove? Tra giugno e settembre molto simili? Abbiamo spiegato in tutti i modi quello che riportano gli esperti, cioè che l'inclinazione dei raggi UVA che hanno un effetto comunque anche nella circolazione del virus è fondamentale. Adesso non è che posso fare una lezione di così scienze dal primo anno di scuola media per spiegare come è inclinato il i raggi, come sono inclinati i raggi solari tra novembre rispetto a giugno e luglio, no? Eppure i contagi erano in calo e le terapie intensive vuote. Da un mese e mezzo abbiamo l'obbligo nuovamente di mascherina, distanziamento sociale, prescrizione di sicurezza, ma abbiamo nuovi picchi influenzali. Come mai? Lo riconduce ad altre ragioni? No, io penso che lei debba ricondurre se stesso a un'unità di pensiero, perché veramente è un delirio. Ma questo lo cito per far capire cosa in alcune teste non entri, e bisogna trovare comunque una forma di complottismo, di terrapiattismo, di qualunque cosa, i 5G, pur di non ammettere che porca miseria ci è arrivato addosso un virus che si è sviluppato in Cina. E io su questo sono d'accordo con Trump, virus cinese, e senza essere avvertiti, e che è arrivata la seconda ondata, e che noi abbiamo, in questo caso la Cina non c'entra nulla, sottovalutato, noi, i francesi, gli spagnoli, i britannici, i tedeschi, abbiamo sottovalutato le regioni, il governo centrale per alcuni versi, la seconda ondata o il riproporsi di questo virus. Ma lasci stare giugno e settembre, nessun obbligo di mascherina. Ma dove ha vissuto lei tra giugno e settembre? E dove vive adesso se dice che la temperatura è uguale? Dai, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Focus Economia. Allora, la sanità calabrese, dunque guardate, però non possiamo ogni volta ritornare sugli stessi temi, perché le persone che muoiono di problemi cardiorespiratori, il problema non è questo, il problema è che si sommano ai morti che avevamo gli anni scorsi. Stanti dati Eurostat, in Italia ci sono 40.000 morti in più da gennaio a giugno, come media statistica rispetto ai 5 anni precedenti, va bene? Allora, o è successo solo per caso o c'è un problema. Il problema è che questo si somma ai morti già che avevamo per malattie cardiovascolari, per tumori e quant'altro, respiratori e quant'altro. Nessuno sta dicendo che quei morti non contino. Il problema è che se tu si saturano poi gli ospedali, inizi a dover scegliere, cosa che qualcuno sta già iniziando a raccontare, per esempio in Calabria o in altri reparti. Non vorrei tornare lì. Non è vero, gli stessi morti. Senta, però allora bisognerebbe fare come hanno fatto i social network. Non si può bloccare anche qualcuno che scrive, cioè non è che io posso iniziare a dire guardate che bere l'acido muriatico è uguale a non berlo, perché allora andatevi, visto che mi dà dell'ignorante mistificatore, vada a vedersi Eurostat, c'è il sito, invece di perdere tempo a rompere le palle a me che sono in onda, vada a vedersi il sito Eurostat, gennaio giugno, ci sono tutti i paesi europei, hanno preso la media dei morti, dei decessi tra gennaio e giugno nei 4 anni precedenti, li hanno confrontati con la media, con i morti dei primi 6 mesi di quest'anno. Si scopre che in Italia ci sono anche 10.000 in più rispetto a quelli che abbiamo conteggiato per Covid, che in Francia ce n'è qualche migliaio in meno rispetto a quelli che hanno conteggiato, ma che in tutti i paesi stiamo parlando di decine di migliaia di morti in più. Va bene, poi uno può pensarla come cavolo vuole. Detto questo, ripeto, anche che il mondo è piatto, però non si avvicina a Gibilterra a quel punto, se ci crede. Allora, per quello che riguarda la Calabria, attenzione, io non ho voglia di tornare su Cotticelli, che poi ha dichiarato ieri, quel giorno non ero lucido, ero in stato confusionale, cioè ha parlato a sua insaputa, l'hanno drogato a sua insaputa, non lo so, che abbiamo visto di tutto a insaputa, e anche sul fatto che Giuseppe Zuccatelli, Speranza dice, il ministro dice non si possono buttare via 30 anni di curriculum per un'intervista sbagliata, perché lui disse a suo tempo la mascherina non serve un ca, devi stare con me a baciarmi per 15 minuti per beccarti il virus, tanto lui se l'ha beccato comunque il virus. Io faccio un appello, visto che siamo con tassi di disoccupazione alti, ma non si riesce a trovare un commissario per la sanità calabrese normale? Cioè uno normale, non uno che venga drogato a sua insaputa, che parli a sua insaputa, non un altro che dice che le mascherine non servono a niente, normale. Diciamo, tanti di quelli disoccupati, laureati, no? Un commissario normale in una regione che è tutto tranne che normale nella gestione sanitaria, visto che è commissariata dal 2010, non ha fatto nulla in questi mesi per aumentare i posti di terapia intensiva, 40 in più, dicevo, nonostante i 65 milioni ricevuti. Voglio far ascoltare invece, poi andiamo sul traffico e parliamo degli Stati Uniti, quello che ha detto oggi il presidente della commissione antimafia 24 mattino con Simone Spezia qui a Radio 24, Nicola Morra, che ha detto: attenzione, anche i miei esposti sulla situazione tragica e criminale della sanità calabrese giacciono nei cassetti. La situazione calabrese è molto più grottesca e tragica di quanto non si possa ipotizzare stando a Roma. Bisogna starci e bisogna capire che ci sono meccanismi infernali che purtroppo si ha difficoltà a rimuovere. Non ne nascondo che, per esempio, ieri è stato, seppur diciamo così sfiorato, il problema dell'azienda sanitaria territoriale di Reggio Calabria, per cui addirittura in alcuni casi si sono ipotizzati suicidi / omicidi, i commissari inviati a mettere a posto i conti, in riferimento a Fortunato Campolo. Però quell'azienda sanitaria provinciale ha debiti per circa 1 miliardo di euro, per anni non si sono presentati i bilanci e, le aggiungo, da un punto di vista penale, per il momento, che io sappia, nessuno ha pagato. E io stesso ho prodotto diversi esposti per la sanità calabrese, solo che presso la procura presso cui sono stati presentati giacciono. Io sono stato anche sentito come persona informata sui fatti, però le cose non vanno avanti, anche perché c'è tanta politica regionale che ha interessi nella sanità privata, e allora il ragionamento è molto molto semplice: affossiamo la qualità della sanità pubblica, indirettamente favoriamo la sanità privata. Adesso andiamo sul traffico, poi cosa cambia nei rapporti in primo luogo economici tra Europa e Stati Uniti con la vittoria di Biden, poi torneremo anche su alcune dichiarazioni di Conte. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Dunque, che America sarà dal punto di vista economico quella di Joe Biden? Biden ha annunciato un piano su tre priorità. E quindi, da un lato, la nuova task force contro il coronavirus, 7.500 miliardi di investimenti in 10 anni, con un approccio abbastanza keynesiano, subito 2.000 miliardi per infrastrutture, energia pulita, ricerca e sviluppo, poi il 5G, tecnologie per le batterie e intelligenza artificiale. Vuole aumentare le imposte federali sulle società, portandole dal 21 al 28% per chi supera, e anche per chi supera i $400.000 di reddito annuo, per investire in welfare, assistenza pubblica e Medicare. 2.250 miliardi di investimenti, poi 640 miliardi di incentivi per le famiglie a basso reddito, per l'edilizia popolare, 1.600 miliardi per l'istruzione e l'aumento del reddito minimo. Lucio Caracciolo, direttore di Limes, buonasera. Buonasera a voi. Senta Caracciolo, la domanda è molto semplice. Questo è il fronte interno, che chiaramente riguarda anche noi, perché se l'America poi torna a crescere, c'è un piano di investimenti, ne beneficiano anche le nostre esportazioni verso gli Stati Uniti. Ma nei rapporti con l'Unione Europea, dove Trump aveva usato molte volte la minaccia, non sempre era seguita poi un'azione concreta, se vuole aggiungere anche nei rapporti con la Cina, dal punto di vista economico, che presidenza sarà quella di Biden? Intanto la politica estera fino a un certo punto la fa il presidente, il caso di Trump è stato anche piuttosto evidente, lui diceva una cosa poi ne accadeva in genere un'altra. Nel caso specifico poi, se come è probabile, le elezioni del 5 gennaio per i 2 seggi vacanti al Senato porteranno a una maggioranza repubblicana, a quel punto Biden sarà più che un'altra zoppa, e anche tutte le cifre che lei ha citato mi paiono scritte nell'acqua, cioè è chiaro che il Congresso non gli farà passare quasi nulla. Quindi non si possono fare molte previsioni, salvo che in questo momento è centrale, e i riflessi economici sono evidenti, l'approccio strategico contro la Cina, cioè la Cina non deve diventare il numero uno del mondo, e questo significa impedire che le tecnologie cinesi siano superiori a quelle americane, impedire che la Cina sviluppi una potenza militare eccessiva e pericolosa, e convocare gli europei, quindi anche noi italiani, in una coalizione anticinese. Ecco, io personalmente non è che voglio tifare per nessuno, ma penso che la Cina abbia delle grosse responsabilità nella gestione di questa pandemia. Non abbia mai voluto accettare un'ispezione, non abbia mai chiarito come è nato questo virus, non abbia mai fornito informazioni in tempo sufficiente e abbia cercato di comprarsi anche pezzi di partiti, anche da noi secondo me, con un'operazione di amicizia e simpatia. Ma lei ci sta dicendo che quello che è stato l'approccio molto netto e duro di Trump con la Cina non cambierà con l'amministrazione Biden? Non credo che cambi, perché sulla Cina c'è un consenso, direi quasi generale, negli Stati Uniti d'America. E l'Europa invece, visto che mi sta toccando il tema, Caraccio, la vede più in ordine sparso? Beh, sapevamo che la Germania aveva un grosso rapporto economico con la Cina, parte di questo governo ha salutato con enfasi l'avvio della Via della Seta, oppure anche in Europa sta cambiando l'aria nei confronti della Cina? Beh, sta cambiando sicuramente l'aria, anche i tedeschi hanno preso delle misure di protezione piuttosto nette, però è chiaro che il rapporto fra Cina e Germania è un rapporto che dura ormai da 30 anni e che è abbastanza vitale per l'economia tedesca, non potrà essere interrotto. Aggiungerei, non potrà essere mai completamente realizzato nemmeno il programma americano, che tendenzialmente tende a costruire una barriera fra le due economie, fra i due paesi. Il prezzo politico e il prezzo finanziario sarebbe probabilmente insostenibile. Aggiungerei infine che con questa storia dell'autarchia molti paesi stanno cominciando a pensare di costruire degli ambiti privilegiati in cui possano evitare le sanzioni indirette americane, cioè il fatto che gli americani colpiscono dei nemici loro indirettamente colpendo anche degli alleati. E questo, in una prospettiva di medio-lungo termine, credo che sia un fattore da tenere d'occhio, perché in qualche modo minaccia il primato del dollaro. Ultima domanda, poi la lascio. Per quello che riguarda i rapporti economici con l'Europa, al di là della vicenda Airbus-Boeing, lei ritiene che Biden invece avrà un atteggiamento, tra virgolette, più morbido rispetto a quello di Trump? Cioè, si cercherà Nel momento in cui gli europei gli dessero una mano contro la Cina, probabilmente, e naturalmente anche contro la Russia, probabilmente Biden potrebbe avere, se non altro nel tono, un approccio diverso. Poi si sa che queste cose le fanno le alte tecnologie, l'intelligence, il Pentagono e quanti altri, e il Congresso naturalmente. Però dice almeno nel tono, a patto appunto che si ricrei un asse atlantico che aveva molto vacillato sul fronte. Diciamo che Biden alla signora Merkel quantomeno darà la mano, sì. Poi dopo vedremo che cosa ne scaturirà. Infatti la Merkel ha già commentato in maniera positiva queste elezioni. Sì, prima di Trump, che aveva aperto un doppio fronte atlantico e pacifico, cioè con la Cina e anche con l'Europa. Grazie anche a Lucio Caracciolo. Noi resteremo sul tema non tanto di Biden ma degli Stati Uniti e delle borse per commentare quello che è successo oggi sul mercato. 349-238-6666 per sms e whatsapp. La chiusura di Milano comunque è molto forte, più 5,50%, Parigi addirittura più 7,60%. Il microfono dello smartwatch sente quando apriamo l'acqua e se stiamo muovendo il polso, e quindi ci dice di lavare le mani, di sfregarle bene per circa 20 secondi. La gente, se ha a disposizione un giga, lo usa tutto, se ne ha due lo usa tutto e già non bastano. Queste sono le voci di 2024. Andate online, ascoltate la puntata e abbonatevi al podcast. Sono Enrico Pagliarini. Venerdì alle 22 vi aspetto con un nuovo episodio. Focus Economia. E 8 minuti. Analizziamo adesso quello che è successo sui mercati, ma chiaramente l'elemento scatenante l'abbiamo ricordato molte volte anche in apertura, cioè la Pfizer ha annunciato che la terza fase del vaccino sta andando bene E non si è limitata a dire questo, perché la Pfizer ha anche aggiunto altre cose. Lo ricordo perché si fosse appena messo in collegamento. E cioè ha detto che sostanzialmente è efficace al 90% nella fase 3 della sperimentazione. Poi la von der Leyen ha detto di avere prenotato 300 milioni, che l'Europa si appresta a prenotare 300 milioni di dosi. La Pfizer poche un'ora fa ha detto sulla base delle proiezioni Pfizer e BioNTech potremmo fornire 50 milioni di dosi quest'anno e fino a 1 miliardo e 300 milioni nel 2021. La domanda però è leggermente diversa. Allora, quando le borse salgono del 5,40 a Milano, del 7,60 a Parigi, del 5 a Francoforte, del 4,70 a Londra, del 4,20 il Dow Jones, con moltissimi titoli industriali che poi vedremo, Leonardo più 16, Pirelli più 14, è speculazione che ci sta nel mondo dei mercati finanziari, perché vivono anche di questo, quindi compri perché speri di vendere a brevissimo, o è un vero riposizionamento, che anche questo è tipico dei mercati che dovrebbero anticipare le tendenze poi reali, su quello che potrebbe essere il rimbalzo dell'economia. E di questo vorrei parlare nell'appuntamento, come ogni lunedì, con Dietro la Notizia. Dietro la Notizia. Allora, di nuovo benvenuto Alessandro Platerotti, editorialista del Sole 24 Ore. Buonasera Alessandro. Buonasera a te e buonasera a tutti gli ascoltatori. Oh, senti che qualità che hai con il Luci adesso. Mamma mia, siamo riusciti a sistemare anche tempo la qualità del Platerotti. È l'unico che ci mancava, adesso manca solo il vaccino. Sono gli investimenti. Sì, lasciamo stare gli investimenti. Allora Alessandro, invece la domanda è semplice, però immagino prevede una risposta articolata. Sì, rispondo rapidamente, guardate. Allora, sicuramente, partiamo dalla Pfizer. Pfizer oggi ha guadagnato il 9%, è a $39.61, non è il suo massimo dell'anno, diciamolo subito, quindi vuol dire che era giù rispetto ai tecnologici. Questo è indicativo di che cosa? Che sicuramente il settore farmaceutico, adesso Pfizer recupera, ma è quello che stava sotto bastone della borsa, perché è uno dei comparti che era favorito da Trump, era favorito da Trump, ed è, ricordiamo, 5 miliardi di dollari, è stato il primo assegno che ha staccato Trump per le società farmaceutiche americane in occasione del Covid, quindi insomma c'è un rapporto molto forte. Detto questo, è il vaccino anti-Covid che fa volare i mercati? No, c'è un aspetto tecnico che gli ascoltatori devono tenere presente, che è il famoso, si chiama hedging, ovvero la copertura di rischio della parte dei mercati. Nei giorni dell'incertezza si stava facendo hedging, cioè si metteva corti, si vendevano certi settori e ci si proteggeva comprando altri strumenti finanziari, tipo futures o altri comparti. Adesso si stanno smontando quelle posizioni prudenziali, quelle famose di hedging. Perché? Perché c'è chiarezza sostanzialmente su chi governa, ma c'è soprattutto chiarezza su quello che non si potrà fare con la nuova amministrazione. Che cosa non si potrà fare? Partiamo dalle tasse. Allora, attenzione, perché Trump aveva portato la tassa sui redditi d'impresa dal 30% che c'era con Obama a circa il 21%. Biden voleva alzare le tasse notevolmente sulle imprese, questo avrebbe sicuramente colpito i profitti, e quindi le aziende che fanno parecchi profitti, le aziende tecnologiche e così, ma allo stesso tempo adesso con il Congresso, che di fatto il Senato resta in mano ai democratici, ma la Camera è in mano in questo momento ai repubblicani, vuol dire che non ci saranno grandi riforme fiscali. Cioè l'America in questo momento, la borsa dà per scontato che un aumento delle tasse forte sulle imprese non ci sarà. Questo riguarderà naturalmente anche le rendite finanziarie. Quindi su questo fronte la spaccatura tra democratici e repubblicani, fra Senato e Camera, sicuramente giova, perché non ci saranno grandi riforme. Lo stesso vale per l'industria farmaceutica. Biden avrebbe messo mano nuovamente alla riforma farmaceutica smontata da Trump, che aveva fatto Obama. Quindi anche lì non si tocca nulla probabilmente, questo dà sostegno nuovamente al comparto farmaceutico. Ma a breve, diciamo così, l'orizzonte qual è? È quello del sostegno, degli aiuti delle banche centrali e dei governi alle imprese e soprattutto alla parte finanziaria, ovvero le emissioni obbligazionarie e il mercato dei capitali. Questo sicuramente continua a dare sostegno. E poi infine le banche. Attenzione, perché mentre da noi in Europa l'EBA ha revocato, come sai, le misure straordinarie per le banche, per la contabilizzazione dei prestiti, in America questo non è avvenuto. Ieri è stato fatto un conteggio su che cosa ha significato per le banche la sospensione delle regole di Basilea. Bene, 3.000 miliardi di attività in più e di aumento dei profitti generali per il settore americano. Perché? Perché la possibilità di non contabilizzare, diciamo così, i crediti in sofferenza, certo, le famose gli NPL, classificati come inesigibili, ha permesso alle banche di ridurre quello che è il rapporto di leva e quindi di liberare capitale per il loro patrimonio. Ecco, Alessandro, questo tu stai al sicuro, gli ha permesso di fare i ricchi dividendi che in questo momento vogliono distribuire. Ecco, tu stai ragionando molto sull'effetto Biden. Vorrei aggiungere un ultimo elemento, ma invece per quello che riguarda l'effetto Pfizer, cioè l'effetto vaccino, bisogna leggere nella giornata di oggi un movimento solo speculativo oppure un ragionamento in prospettiva un po' più basato sui fondamentali, cioè oppure una borsa, dei mercati che dicono attenzione, qua come arriva il vaccino l'economia riparte a molla, perché non era una crisi dovuta alla finanza o all'economia, ma una crisi sanitaria, e quindi ci riposizioniamo sui settori più tradizionali. Quale delle due? Allora, attenzione, perché questa è una corsa di recupero, perché i titoli del settore farmaceutico, soprattutto quello della Pfizer, la Merck, le grandi che sono impegnate sulla ricerca dei vaccini, beh, su quei titoli era già stato scontato il rialzo. Fra l'altro, come sai bene, su questi fenomeni qua, l'effetto annuncio ha giocato un ruolo chiave nei rialzi del settore farmaceutico. Da quanto leggi tu sui giornali che un vaccino è in arrivo? Ogni volta che una società dice fase 2 o sono alla 3, i titoli volano, poi perdono, perché effettivamente sono solo effetti annuncio, ma i valori attuali, e ti dico perché, perché il rapporto fra i prezzi di queste azioni e gli utili che generano sono al massimo storico già adesso. È già speculazione, hanno già scontato questo, quindi non facciamoci incantare da questo. Vale anche per i titoli industriali, molto. Questo vale anche per i titoli industriali, secondo te? Questo vale anche per i titoli industriali, cioè quando andiamo poi a casa nostra in Europa, sì, le varie. No, e questa è una domanda, mi ha fatto bene a chiedermelo, perché questo è il rialzo della Pirelli, ad esempio, ma gli industriali hanno un suo perché. Perché Biden tenterà in ogni modo di ricucire comunque il rapporto con quella grande industria tradizionale che si era un po', diciamo così, ci ha messo sopra il cappello Trump durante la sua presidenza. Ma tutti i settori più tradizionali dell'economia americana, dove naturalmente è più forte il ruolo dei sindacati, beh, quelli sono i settori che beneficeranno di più di una presidenza. Attenzione, perché poi parliamo di che cosa? Di investimenti. E su questo terreno c'è un'equazione opposta fra Europa e Stati Uniti e soprattutto l'Italia. Cioè, di fatto, il fabbisogno dell'emergenza sta togliendo i soldi per gli investimenti. L'America in questo momento è nel pieno delle trattative per il nuovo piano di aiuti, sono altri 1.000 miliardi che saranno messi sul piatto, andranno tutti a investimenti nell'economia reale. Con Biden questo è sicuro, e soprattutto in quello che noi chiamiamo green, cioè tutto il mondo della trasformazione ecologica e industriale che è in corso in questo momento, in funzione anche del Covid. Allora, grazie a questa nuova versione, quanto a qualità perlomeno, di Alessandro Praterotti, che troveremo lunedì prossimo con Dietro la Notizia. Andiamo sul traffico e poi rapidamente i titoli, i singoli titoli di borsa e il DL Ristori bis. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. Stefania Arcudi, Radio Corri Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Allora, al di là del ragionamento complessivo, c'è stato un riposizionamento di tutti i settori, anche industriali. Leonardo più 16,20, Pirelli più 14, bene le banche più 14, anche Bipere 13,7, Unicredit bene, petrolio più 10%, quindi Eni più 12,80, Saipem più 12,30, Tenaris più 9,5%. Intesa San Paolo più 9,20, Era più 7,60. Ribadisco anche a te la stessa domanda, solo speculazione sull'annuncio del vaccino o un vero analisi di prospettiva? Se poi mi commenti però anche di Assorin, meno 16,50%. Sì, sicuramente, come dicevate voi poc'anzi, c'è un appeal speculativo sui titoli oggi, ma anche in parte almeno per oggi, la speranza che si tratti di una ripresa insomma continua, insomma, che abbia effetti positivi sull'economia, soprattutto nel lungo periodo. Infatti oggi, oltre agli industriali, sono andati bene tutti quei titoli maggiormente esposti alla crisi, per cui il settore turismo, il retail, le vendite al dettaglio, insomma, sono quelli maggiormente esposti. Sicuramente poi, appunto, per quanto riguarda Leonardo, Pirelli, Leonardo in particolare, poi era andata male venerdì scorso, quindi dopo la trimestrale, quindi ha tratto beneficio ulteriore. In coda, come dicevi, di Assorin, sostanzialmente l'unico titolo che ha perso molto quest'oggi, dopo la svolta sul vaccino di Pfizer. Di Assorin era stata protagonista da marzo in poi, con un rialzo quasi del 100%, ha raddoppiato quasi il valore del titolo alla chiusura di venerdì scorso, perché Di Assorin è stata protagonista sui test anti-Covid, che potranno diventare meno rilevanti se effettivamente si troverà un vaccino efficace, se arriverà sul mercato potenzialmente entro fine anno. Ricordiamo che Pfizer e BioNTech prevedono di produrre fino a 50 milioni di dosi a livello globale già nel 2020, fino a 1,3 miliardi nel 2021. Questo ha chiaramente penalizzato, certo, il titolo di Di Assorin. Allora, grazie anche a Stefania Arcudi. Adesso andiamo in conclusione sul Ristori bis. È un po' complicato, ma in realtà ha una logica, ci mancherebbe. Quello che è stato modificato con il DL Ristori bis, che vale altri 2 miliardi e 800 milioni di euro, oltre 2 miliardi e 400 milioni che valeva il primo DL Ristori, quello diciamo che ha istituito quella che adesso si chiama zona gialla, cioè la chiusura di bar, ristoranti e altre attività, o completamente o fino alle 18, si viene integrato in qualche modo sia come soldi che come codice Ateco, come categorie. Allora, in tutto sono 130 le categorie che riceveranno i contributi a fondo perduto previsti dal decreto Ristori 1 e dal decreto Ristori 2. Allora, se ho ben capito, si sono aggiunte alcune categorie anche per chi lavora in zona gialla, quindi anche per chi è ancora nella situazione del Ristori, del primo decreto Ristori, perché c'erano state lamentele e critiche per alcune categorie, quindi si sono aggiunte una ventina di voci. Dagli autobus turistici alle scuole di danza, dai musei ai negozi di bomboniere, dai produttori di fuochi d'artificio agli zoo e le guide alpine, cito in ordine sparso. Sono 20 voci in più. Queste, insieme agli altri settori, che sono 73 in tutto il codice Ateco, riceveranno un indennizzo automatico che va tra una volta a una volta e mezzo, a due volte di quanto già ricevuto ad aprile, per il fatturato di aprile ricevuto a maggio-giugno. Solo le discoteche e i locali da ballo avranno quattro volte quanto ricevuto. Quindi qui si è integrata la lista delle categorie. Poi invece, per chi è finito in zona rossa, chi aveva solo una volta e mezzo, tipo i bar, avrà il due volte, cioè passa dal 150 al 200% di quanto ricevuto, perché per esempio i bar nelle zone rosse sono chiusi sempre, tranne che per asporto e delivery. Lo stesso vale per gli alberghi. E poi, quindi, la prima domanda è per Gianni Trovati, che saluto. Gianni, buonasera. Buonasera. Come si fa se tu hai già ricevuto i primi 150? Poi, se ho ben capito, vi sono altre categorie che entrano ex novo, altre 57, perché in zona rossa, quindi dai vestiti ai mobili, dalle mercerie fino ai sexy shop. Gianni. Sì, allora, nel caso in cui il bonifico sia già partito, come indicato da Gualtieri venerdì, ci sarà una integrazione, e anche per le categorie nuove rispetto al Ristori 1, che però avevano già ricevuto il primo indennizzo ad aprile, anche per loro tutto l'iter sarà automatico. I calcoli li farà l'Agenzia delle Entrate e nelle prossime settimane dovrebbe arrivare il bonifico anche a loro, secondo le regole nuove. le categorie nuove rispetto al Ristori 1 sono evidentemente dettate dal fatto che le chiusure in zona rossa sono molto più ampie, certo, rispetto a quelle previste al Ristori 1, perché in Lombardia, Piemonte eccetera hanno chiuso tutti gli esercizi commerciali tranne quelli considerati indispensabili, servizi alla persona e così via. Per chi, quindi il criterio rimane sostanzialmente bipartito, chi ha già avuto ad aprile un primo indennizzo deve solo aspettare che gli arrivi il secondo, in base ai calcoli che vengono effettuati e ai bonifici che vengono erogati direttamente dall'amministrazione finanziaria, poi una volta arrivato il bonifico calcolare che sia giusto, vabbè, questo è abbastanza ovvio. Però ci sono una serie di categorie che non erano previste nella tornata di aprile, in particolare di tutti i settori interessati dalla nuova accoppiata di decreti, quelli che hanno un fatturato superiore, un fatturato annuo 2019 superiore a 5 milioni di euro. Questi soggetti e gli altri che non hanno ricevuto, magari non avevano fatto domanda il primo, certo, bonifico, devono fare domanda, ci sarà il modello sul sito dell'agenzia e quindi per loro l'iter sarà inevitabilmente un po' più lungo. Ecco, una domanda che spesso mi viene fatta, Gianni, è: ma se io ho aperto l'attività a marzo o a febbraio, non avevo un raffronto col fatturato dell'anno prima, oppure l'ho aperta a maggio-giugno, cioè, e lì non prendo niente? Si ha diritto a un minimo, c'è cioè un indennizzo base che è 1000 euro per le persone fisiche, 2000 per le persone giuridiche e tutta la catena del 150%, 200%, cioè le moltiplicazioni rispetto al primo indennizzo di aprile vanno calcolate su quella base. Quindi chi è in quella condizione ed entra nelle categorie che oggi hanno un diritto a un indennizzo doppio rispetto ad aprile, se aveva diritto a 1000 euro ne riceverà 2000. Esatto, così risponde anche un ascoltatore che mi dice: ma io aprile ho preso 1400 euro, oggi quanti? Allora, dipende che categoria ha. Se lei è un bar, 2,8. Se è un bar ne prende 2008, se è un bar in zona rossa però, perché se è un bar in zona gialla... No, i bar sono sempre al 200%. Sicuro? Ok, ho capito. Sì. Vabbè. Abbastanza sì. No, sei il mio, era un modo di dire. Allora, gli alberghi sono al 150, i ristoranti sono al 200, quindi se un bar o un ristorante prenderà 2008, se invece un albergo o non so, un rifugio di montagna prenderà 100, una volta e mezzo. Se non è in zona rossa però, se ben capisco, perché se è in zona sì, rossa... E poi c'è anche un'ulteriore integrazione perché... È un estetista, dai, così rispondo a questa per chiudiamo, è estetista in zona rossa e prende il 200, giusto? Prende il 200 perché... Allora, chi è chiuso prende il 200%, prende il doppio di aprile. Okay. Se poi si è un bar o un altro esercizio commerciale all'interno di un centro commerciale si ha diritto a un'altra integrazione che arriverà del 30%, sì, da calcolare però rispetto al decreto Ristori 1, quindi chi era al 150% dovrà calcolare, mi perdonino gli ascoltatori, ma è colpa delle norme, non sì, è colpa mia, io invece. Dimmi. Il 30% sul 150% se sei dentro un centro commerciale. Oh, grazie, che questo è comunque Sole 24 ore, ha pubblicato la guida, ripubblicherà le guide, leggete anche Sole 24 ore perché poi il calcolo l'abbiamo spiegato mille volte. Grazie Gianni Trovati, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.